house of the 7th Floor 3 up there. It wasn't out here. He keyed up when you were first talking and said I was talking to myself. I should just look at it. Especially when you put it on your beams and you face it to him. Oh, yeah. Yeah, I couldn't hear you. Motor mouth all talking to you. That's how he was coming back to you. Yeah, because you were facing him. Yeah, who's calling me? Yeah, go ahead. Yeah, that's what 963 out in Elyria was saying. He's been calling the number, not getting nobody. Have a good day. Two appeared by what? Qualcuno per un controllo, cambio. Sione, Brecco, c'è qualcuno per un controllo, cambio. I giocatori muscolari possono colpire il corpo. Senza che si combatte, il giocatore si rassegna. Chi è avanti? Carlo. Sei natalino? Ehi, ciao Carlo, buonasera. No, buonasera Natali, mi serve un controllo al volo, come sto uscendo di segnale di radio. Ehi, aspetta un attimo, che mi metto gli occhi. Ho capito. Vai. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Radio 5, 920 il segnale. Ma perché ho messo l'antenna nuova? Ehi, vabbè, ma noi siamo troppo vicini, Dovresti, in lontananza, dovresti chiedergli controlli, Carlo. Noi siamo vicinissimi qua. Adesso stavo controllando le stazionarie, c'ho 1 e 1, poi sul 40 c'ho meno di 1, sul canale 1 lo stesso meno di 1, al 20 così lo stesso 1 e qualcosina, forse neanche. E allora già va bene, dai. E domani ho fatto una sudata che non ti dico perché è un'antenna enorme. Minchia, portarla su sul palo era un casino, l'ho dovuta praticamente il tratto finale l'ho dovuto assemblare in terra, poi mettermelo in parallelo, abbassare tutto il resto dell'antenna e insomma alla fine è una fatica che non ti dico, comunque ci sono riuscito e adesso praticamente devo, domani che avrò un altro po' di tempo, domani mattina la giro un pochettino, la punto verso nord, meglio, sistemo il cavo perché adesso l'ho solo collegato e buttato così perché devo andare al lavoro, alle 18 devo essere al lavoro, capito? Grazie comunque Natalì, non mi posso trattenere più di tanto, giusto era per vedere se stavo uscendo. Ok, va bene Carlo, là, buon lavoro, buon tutto, alle prossime. Oh, grazie Natalì, ci sentiamo con più calma. Che è avanti? Hola, Italia. Hola. Mi isolato tutto il rosso della taratura che ho fatto io, è rimasta così. E vabbè, poi domani collega il rosmetro e vede un pochino se le stazionarie sono buone o se quello stilo va leggermente sollevato. Io più o meno l'ho fatto a taratura come la mia, capito? Va bene, va bene. E niente, poi domani si finisce la... No, già è bella giornata anche domani come oggi. Benissimo, la grande, ti ripeto, io più o meno quella registrazione lì l'ho messa come la mia a 1,75 mi pare di altezza, poi vedi tu, se da regolare, ricordati che devi tirare leggermente sullo stilo, quello dove c'è collegata la J-Pol, capito? Quello più piccolo, quello lì, e basta, una volta che poi è regolato, stringi tutto e la tiri su, però prima regola le stazionarie prima di tirarla su, tanto non c'è problema, io le ho regolate da terra, quindi... Ciao! Non so chi è. Ciao, non c'ero da poco fa, però sicuramente, come sono andato male la strada, stamattina mi sono dimenticato di girarlo di nuovo una M. Ciao Claudio, ciao a tutti gli amici. Carlo, va bene così, è quello che ti volevo chiedere. Avanti, ti sento anch'io, non c'è problema. Proviamo, sono sicuro che ti sento, sentito sempre tutti. Gappa, dai, io ti ascolto sempre bene, dai. Ti ascolto. Claudio, avanti. Sì, io non sapevo che eri tu, no. Io ho sentito questa banda laterale. Infatti l'ho detto per forza, Carlo, non lo senti, se sta trasmettendo in banda laterale, ma non sapevo che eri tu, se non ti avrei chiamato per nome. Va bene, vabbè, sì Carlo, prima regolati le stazionarie, più o meno, dai, io l'ho fatta, ti ripeto, come la mia, te l'ho sembrata così, adesso tu controlla se sono giuste e lasciale così come te le ho sembrate io, la misura è quella, altrimenti tiri leggermente su e poi fissi tutto, capito? Ma diciamo, il lavoro grosso è già stato fatto, dai, perché quella è un'antenna che... È un po' difficile da sistemare da solo, però io già te l'ho data già quasi pronta, quindi è già assemblata. Vabbè, poi domani facciamo le prove allora. D'accordo, dove sei arrivato Carlo? Ehi a Carlo, va bene. Non ho dubbi che sia un'antenna abbastanza performante. Ti ripeto, quella è la misura che io ho fatto uguale alla mia quando te l'ho assemblata. Adesso vedi un po', se quella misura va bene, la lasci così, altrimenti tiri leggermente sullo stilo e vedi che abbassano un pochino, dai. Però quella misura lì erano 1,2 quasi, quindi non sono bene lo stesso, poi da zona a zona cambiano, quindi le puoi portare anche a zero totale, perché quello è uno stilo da 1,75 che lavora proprio sulla J-Pol, quindi sulle due barre di sostegno dove c'è l'isola, dove sono i due isolatori, perciò vedi un po', poi mi fai sapere, va bene. Avanti Gianni. Ehi, a me è Carlo di Sassa. Sì, impattato già, cosa? Non allontanati la bocca al microfono. Ho detto, chi è Carlo di Sassari o è la Porto Torres? Sì, ma non lo senti già. Lo sento, ma basso. Ma ti stavo dicendo, ma l'antenna l'hai data a lui, io pensavo che l'avessi data a quello di Porto Torres, ho fatto la confusione, pensavo che l'avessi data a Mario. Pensavo che l'avessi data? A Mario, la J-Pol. No, Mario, ma lo conosco Mario. No, questa era di Carlo, questa io l'avevo ordinata per Carlo, se l'ha presa Carlo di Sassari, sì. L'altra mia l'ho data a quello di Cagliari, a me me l'ha, quando è arrivata quella di Carlo, ha mandato anche la mia, capito? Abbiamo rimontato tutto. No, io mai mica lo so chi è, non so manco chi sia. Tu adesso con la Ah, no, quindi te l'hai rimpiazzata tu l'antenna. Ero sicuro, ero convinto che c'avevi ancora la mappa. Ho anche la mappa, ho la mappa e la GPO. La GPO l'ho piazzata due giorni fa. Ma cos'è il GPO? Appena smesso di fare quella più, ce l'ho piazzata. Ok, va bene, adesso l'ho piazzata anche Carlo, sta facendo gli ultimi ritocchi e poi lo sentiamo in aria, va bene. Avanti Carlo, io ti ascolto comunque una canonata, Santiago 6, 7, 5, molto bene, avanti. Easy. Come mai c'è questa fila dei pullman, cosa c'è? È raduno dei pullman? Non so, ho capito, vabbè. Va bene, tu vai piano, allora stai attento, dai. Gappa, non l'hai sentito, non già? Sì, lo sento, ma proprio basso, lo sento, volevo correre, dai. Se c'è la parola correre, lo compro. E qua sta arrivando basso, ma solitamente da lì, dall'aeroporto, sentivo molto bene. Magari anche l'antenna che ha messo lui è bassa. L'antenna che ha messo lui è bassa. L'antenna di macchina è così. La ricezione, magari per lui è un po' più coperta, ciao Giaffra, buonasera, non sono io più aperta, beh, io sto ricevendo un 7 ottavi d'onda, però tu non 5 ottavi, quindi è chiaro che segnale, comunque perché noi continuiamo a parlare, è più alto, la ricezione è più alta. Avanti Gianfra, buonasera. Sì, buonasera a tutti, buonasera a Gianni, buonasera a Carlo e buonasera a Claudio. Sì, arriva benino comunque Carlo. Sì, qua arriva bene, non benino. Ciao Gianfra, buonasera, ben ascoltato. Avanti Gianni. Ciao Gianfra, ci sono le sì, ciao. Ma Carlo è in coda ancora. Rilancio a lui, riprendi Carlo. Carlo l'ha sentito Gianfranco. Ti ha detto se sei ancora in coda. Va bene, l'hai sentito Gianfranco. Ma Lucio, perché c'ho S5 di QRM? Perché c'è Babbo Natale acceso, che palle, non vedo l'ora che finisca, perché accende da spegnendo quando vuol distruggere, no? Con questo QRM che ci avrete. Io. Carlo, ti col QRM, lei quando usi quell'antenna qua succede, ti dimentichi il QRM, io ce ne ho zero il QRM, cioè sul dia zero. Manco si muove l'ago, sento il fruscio della radio e basta. Avanti Gianni. E anche questa non è che le dà molto QRM, la cosa la rimasta era migliore, come QRM non è bigliava nulla. Questa è la pena, ma non più di tanto. E io Babbo Natale ce l'ho qua però. Ma sta spegnendo il Babbo Natale. Oppure lo metti fuori dalla finestra. No, è qua giù, e quindi dà fastidio. Purtroppo è così. Vabbè, ma tanto fra poco lo spengono, dai, tanto che stanno a montare tutte queste luci, lucette, lucine. E così. Riprendi Claudio. Vabbè, un pochino di QRM che ho aggiunto. Quando cambio con la mappa mi viene il malone, che per carità il QRM che va a Sant'Enna. Ma tutto tipo di costruzione c'entra a fare. Carlo, riprendi avanti dove ci arrivato. Quindi stai per entrare dentro l'aeroporto. E stai per entrare dentro l'aeroporto, ho detto, quindi hai già preso la rotonda lì. Vabbè, chiama appena sei disponibile, dai. Avanti Gianni, non sente più a nessuno. Io lo sento basso, che solitamente da lì ti prendo sempre bene. Ma fa bene, anche se a Colombo mi sono arrivato a casa, figurati. Però strano, è l'antenna sua che è bassa, che dico le piccole, non lo so. Con la Turbo 2001 mi ricordo che mi è arrivato a Santiago 9, ora non mi ricordo chi era, però Santiago 9 con la Turbo 2001. Mi arriva sempre lo stesso segnale, non cambia niente, c'è sempre l'antenna piccola. E da qua all'aeroporto mi arriva sempre uguale, non lo perdo mai, quindi non è un problema di antenna che c'è, è un problema di posizione magari, come di dovere, non è un problema. andato da Cartina, da Fattiglia, mi arrivano col gommino, delle V, lo porto corto. Che vabbè, è un'altra frequenza, già. Sta parlando Carlo? No, sento adesso. Sento quello. Mi sembra che ci fosse qualcuno che parlasse comunque. Se sei tu Carlo, buona serata, buon lavoro, riprendi Claudio. E se deve essere assaltato Claudio? Gianfra, come ti arrivo il segnale con questa antenna? Ah, il segnale sarebbe anche buono, più o meno sempre quello che c'avevi prima. La radio che non mi piace è tutta bom bom bom bom bom bom bom. C'è difficoltà rispetto a quella di Claudio che è chiarissima. Avete calpestato Carlo? Forse è arrivato Claudio. Infatti l'avete calpestato. Dimmi Carlo, stai parcheggiando? Sì, sì, stai parcheggiando. Va bene, dai, quindi stai scendendo, stai andando al lavoro. Ciao. Oh Carlo, vai, ci aggiorniamo domani, fammi sapere su WhatsApp, dammi un colpo di telefono, ok? Mi saluta Carlo, non sente più nessuno. Vai Gianfra. Sì, per un attimo si è abbassato, ho sentito. Ciao Carlo, buona serata. Alle prossime se mi ascolti, a te Gianni. Ciao Carlo, buon trabacco, ci sentiamo, va. Buona serata anche a te. Ciao. Ehi, cos'hai detto per me? Ehi, va bene, dai, ti saluto io da parte loro allora. Non sente nulla. Ti ha salutato Gianni e ti ha salutato Gianfranco. Ciao, buon lavoro, fammi sapere, ti ripeto, su WhatsApp o una chiamata al telefono se hai necessità di qualcosa, ok? Ciao, grazie a te, figurati. Avanti Gianfranco. Sì, adesso sta arrivando un pochettino meglio. No, non mi sento perché c'ho l'altro acceso per non disturbare, capito? Mi sto facendo bassino. Ok, riprendi Gianni. Vabbè, strano, forse anche la zona. Ma almeno io arrivo sempre bene, è strano. Mi fa strano, forse quella zona lì che non è favorevole per me. Va bene, Claudio, riprendi. Non lo so io, se con l'altra antenna arrivavi lì ai parcheggi, se ci hai mai parlato, non lo so Gianni. Lui ha sempre la stessa antenna, è sempre nella stessa posizione, la strada è sempre quella, quindi non è che cambia nulla. Poi rispetto a me non mi cambia niente, da quando parte fino a quando arriva al parcheggio io lo sento benissimo alla grande, c'è sempre quell'antenna, capito? C'è l'antenna piccola, quindi una questione di posizione eccetera, non lo so, queste sono prove che dovevi fare tu da prima o se le hai già fatte, non so che dirti. L'ascolto anche con la mantova, comunque con la GPO lo ascolto 5, con la mantova lo ascolto 3, ma lo ascolto lo stesso. Perde due segnali, però lo ascolto sempre. Va bene, dai, non è un problema. Ok, no, io mi sono tanto un attimino perché c'è la memoria al telefono e quindi ho chiuso la porta. Ripetila con Gianfranco. Comunque l'ho provata a diversi posti che stanno andando a dei segnali, più o meno i segnali della Game Master, qualcosa in più anche a volte, ma più o meno è come la Game Master. Io beh, ma ricordava c'era la mano QRM, forse per quello che sentivi meglio. Questi in alluminio hanno sempre un po' di QRM, anche la Mantova è così. Rispetto alla J-Pol, se la J-Pol c'è 0 di QRM, la Mantova S3, S4, S2, capito? E poi vabbè già, ti ricordo io che rispetto. Questa è una 7 ottavi, quindi la ricezione è molto più alta, i segnali salgono sempre a fare. Rispetto alla Mantova io ho fatto le prove prima di montarla a terra e già da terra c'era una differenza allucinante, quindi tenendo conto che per me, e sottolineo per me e non per quello che dicono gli altri, a me non mi interessa niente, io le prove me le faccio per me, rimane sempre una grandissima antenna la Mantova, però questa la J-Pol è nettamente superiore a tutte quelle che sono in commercio. Che ne facciano, le prove sono state fatte e questa è la migliore in assoluto per il momento. la gappa. Roberto l'ha sentito già fa, niente, io stamattina sono andato a trovarlo, da 10 minuti, volevo fare un'operazione con lui, mi ha detto che sarebbe entrato stasera, non so. No, negativo, qua io ero sotto, stavo pensando di fare prove con apparecchietto così. So che c'è tutto sto chiamate, tutto un po' di casotto, capito, troppa un casino di gente da fuori. Ti volevo dire, ma poi ti è arrivata l'altra, quella con la V, quello che è? La 7000? No, l'ho ordinata ieri, lunedì, così è, sì, l'ho ordinata ieri, quindi penso che se ce la fa dovrebbe arrivare giovedì o venerdì, altrimenti dopo capolano, ma non è un problema, infatti glielo ho detto, non spedirmela sotto le feste, perché poi rimane ferma da qualche parte e fa la fine dell'altra che avevo preso, che era arrivata schiacciata, quindi me l'avevano sostituita, però è sempre meglio, ma detto no, non ti preoccupare, siccome ci conosciamo con col magazziniere, quindi non c'è problema, ma adesso è vero, se ci sono altri ordini in partenza per la Sardegna te la metto in mezzo, se no aspetto e te la mando dopo le feste, non è un problema, già fra già c'ho l'altro intanto, assolutamente, nulla, tutto tace. Mettila lontano, mi da quella lì. Che troppo vicina è con l'alluminio, non vanno d'accordo, visto. Almeno una decina di metri. No, ma sull'altro dall'altra parte, lì non metto più niente, non lì c'è la mantova, la G-Pol, va bene su quella parte lì. Sull'altra parte metto la 510. La 510 a 7000, no, è dall'altra parte praticamente, quindi il canto della casa sarà una ventina di metri di distanza una dall'altra. Avanti già. Ma lo sto facendo partire da terra oppure sul tetto? Sul tetto, lo metto sul tetto antenne io, le antenne sono a terra, le antenne sono nei muri di recinzione del giardino, sta fatte lì, una per una, sia la mantova sia la Gepola, adesso dall'altra parte sta fuori anche la 7000 che è quella V. Ah ecco, lo sono sottratto alla casa. Già, certo, sì, tutto è impazzato, non ti ho capito, no? O togli l'eco o abbassa qualcosa, buh. Da me che c'ho il presidente 2 è praticamente incomprensibile. Guarda un attimo, devo regolare il microfono, se non mi dai il tempo, già fra. Guarda a vedere se va meglio così, Gio Claudio. Così alla grande, già è troppo amplificato, non capivo, cos'è che mi hai chiesto? Ho detto, quindi sono distanti dalla casa. Vabbè, tu non lo sai, ma come sono organizzato, già Franco già l'ha visto. Sono distanti dalla casa, c'è la casa al centro del giardino, poi tutto il giardino che gira intorno, e ci sono 6 metri di aria dalla casa alla recinzione, 6 metri di aria dalla casa alla recinzione da una parte all'altra. In quei 6 metri che ci sono della recinzione, che il muro è abbastanza alto, mi sto staffando le antenne, capito? Ah, ho capito. Ecco, già almeno non devi rovinare né tetto né nulla. Va bene, va bene. E i pali, come ci stava dando, travici? No, i pali sto usando quelli che avevo. Cioè, i pali che partono da 2 pollici sino a un pollice praticamente. No, assolutamente. Non sto tirando su molto, mi Gianni, io non ho bisogno di tirare su molto, no. Assolutamente, i pali partono da terra, piantone a terra e poi altri 2 elementi che salgono, quindi le antenne sono a 4 metri, 5 metri di altezza, no? Non c'è bisogno di tirare molto su e molto alta questa zona, no? Non devo fare niente di che, come vedi ho una ricezione da favola, mi sentono tutti, non mi affitti nulla, cosa mi interessa, va bene così. Tirerò un po' più su la 510 perché quella bisognerà 7000, quella VU perché bisognerà lavorare, lì metterò almeno 3 elementi, quindi 2, 4, 6, 6 metri, 7 metri, una cosa del genere. altre sono a 4 metri e mezzo, 5 metri. La cipolla è a 4 metri ancora, c'ha due elementi solo. Quest'estate ne aggiungerò un altro, la porterò un po' più su, ma no, non c'è bisogno, perché è un'antenna che lavora a basse cose, capito? Non c'è problema. Non c'è problema, ci hanno indicato Gianfra che devo montare anche la 5 bande, porca miseria, tutte verticali sono. Quindi facciamo due su un lato, mando Virgin Paul e dall'altro lato faccio 7000 e quella HF, sì, l'altra verticale da 8 metri lo stesso. E dovevo fare per forza così. E ho finito il cavo, non ci abbiamo più H1000, gli ultimi 15 metri dovrò montare sulla 5 bande e basta. Ah, tu gli non manco fa uno, cosa ne fai? Cosa ne fai da una tua uno se c'è già quella? Poi mette anche la multibanda, almeno un pezzettino ci arriva qua, anche con la multibanda. E l'altro, e così c'è più spazio, deve mettere l'antenna. Anche ieri stavo ascoltando intorno alle 9:30, 10, col portatile, l'Embara, l'R1, e erano tutti nuovi, anche se era gente grande, della nostra età, appena patentata, ma in gamba veramente, proprio uno di quei QSO, veramente belli da ascoltare. Non potevo entrare perché erano già le 10 e non mandava di mettere l'altra antenna, anche perché mi stavo andando dall'altra guardando anche la TV. Però insomma, ottime new entry, erano tutti da Olbia, uno era anche fuori Olbia, Belchizza credo, in quelle zone lì. Sì, conosco tutti, sono tutte brave persone, tutte ad hoc, non c'è problema. Va bene, no, io porgo la cena, spiego tutto, no, non mi interessa mai stare di notte a fare cose, assolutamente. Va bene così. E adesso vediamo Gianfra, infatti stavo decidendo se toglierà del tutto la mantova, pulirmela, conservarla e lì al posto della mantova mettere la PKW, la 5 bande verticale, vediamo un po'. Intanto adesso non faccio niente, lascio passare tutto questo periodo, vediamo un po', poi vediamo più avanti cosa fare, dai. Intanto sono tutte verticali, quindi gli spazi sono quelli, già non si toccano uno con l'altro, vediamo un po', vabbè. Vediamo, la mappa l'ho lasciata perché è diretta sul Galaxy, capito? È diretta sul Galaxy, mentre la Gepol invece c'è il commutatore e mi fa le 4, i tre che invoco più lo Yaesu, capito? Tutto qua, in attesa che piazzi la 5 bande e poi le divido, faccio 2-2. Avanti Gianni. Dai, io vi saluto che devo uscire, vado a prepararmi adesso, esco da che c'è un appuntamento. Ci sentiamo ragazzi, statevi bene, grazie per il QSO, magari ci sentiamo più là, dai. Ricordati la mascherina FFP2, mi. Sì, ce l'ho in mano. E anche Furio le mitenere. C'è una nuova ordinanza, capito? Quindi occhio, perché c'è la multa. Avanti Gianfra, ciao, buonasera Gianni, alle prossime. Sì, ciao Gianni, buonasera. Alle prossime. Claudio, ma quindi ha fatto ieri l'ordinanza, cos'è per l'esterno chirurgica? Ma io so che l'FFP2 è solo per i trasporti, per autobus, treni e compagnia cantante. No, oramai ci vuole quella, prima hanno letto quella chirurgica, adesso quella chirurgica non serve più, perché stamattina io non ho preso un pacco di FFP2, ci vado alla cena, una rottura di palle, guarda, non ne posso più, adesso li stiamo buttando questa cagata. Vabbè. Ma è una cosa nostra qua, del sindaco, non è a livello nazionale. A livello nazionale sì, si deve usare la mascherina, anche all'aperto però, quella normale, quella quella là e sono solo per i trasporti, così mi è sembrato di sentire, se non l'hanno cambiato all'ultimo istante. Sì, vabbè, quella l'abbiamo già resa, no, c'è da fare, abbiamo già resa quella lì e basta, già questi ricchi, non lo so. Aspetta che abbasso il telefono, aspetta un attimo. Ciao Gianfranco. Quella, Natalino. E allora, che mi dici? Dovrò togliere tutto quanto, perché c'è quello di sopra che mi sta facendo la guerra. Purtroppo non mi sentirete più, perché devo togliere l'antenna, per forza. E non so se riesco a restare libero, perché come lo trovo l'ammazza a colpi. No, non esagerare. Cioè, quello di sopra ti sta facendo la guerra? Perché? Per quale motivo? Non mi dire che ti vuoi. No, no. Non vuole più il palo, perché io l'ho telefonato se mi aiutava a piazzare l'antenna nuova che dovevo smontare quella là. L'ho telefonato e mi ha preso a voci stamattina, ma a voci proprio. E non mi ha voluto dire dove era, ma già lo provo, non c'è problema. Adesso lo tento stanotte come rientra ed è fuggito. No, non ti compromettere per cosa del genere, Natale. La gente sta un po' tutta girando di testa. Non ti conviene stare lì a fare la guerra con questi elementi particolari, ecco. Poi sono cose gravi e a posto di stare più tranquilli sta peggio. Ehi, ma questo è un infame di questura, un ex galeotto, un rapinatore, capito? Con questo ci vogliono le maniere forti. Oh cavolo, direi tutto. Non è male, altro è peggio. Te lo sto dicendo che c'è gente cattiva qua. Per cosa l'ho detto che c'è gente cattiva? Per quel motivo, perché è vero. Poi c'è qualcuno che vuole entrare, c'è qualcuno che vuole entrare? Sì, questo è il Gianfranco, buonasera, sono da Ruginizzo, me lo dai un controllo per favore, grazie. Come sto uscendo, quant'è il segnale, per favore, grazie, riprendi. S8 Radio 5. Tappa, grazie mille Gianfranco, sì che sto parlando da un'altra postazione, capito che non l'accendo quasi mai e stavo provando un apparato, stavo, siccome ieri c'era gente che stava mettendo portanti, ho messo in funzione l'altra postazione con il lineare da un kilowatt e niente, da queste estreme condizioni di lavoro che da non ti trattengo oltre, già fa che devo attaccare una cosa, la radio che non ho finito di metterla a punto, da ci sentiamo più tardi, ti ringrazio del controllo e saluto a tutti, non so chi c'è altro perché li sento quasi, gli altri che parlano, comunque ritenetevi tutti salutati, per il momento io rimango in QRX, Gianfranco, grazie per avermi dato il controllo, riprendi. Comunque non devo dire che sia la leggera che c'hai, che utilizzi quelle potenze, perché qua a Sassari mi hanno detto che sono di nuovo in giro, occhio, anche se il coso è libero, ma insomma, stai attento. Riprendi Natalia, l'hai sentito a Claudio? È la prima volta che lo sento, già l'ho sentito, piano piano, ma già l'ho sentito. E vabbè, tanto adesso me la devo togliere l'antenna e quindi no, troppo non sentirò più nessuno. Natalia, ma la che è rimasta l'hai piazzata? Buonasera. Non solo di averla piazzata, ma devo togliere pure questa. Quello di sopra mi sta facendo la guerra. Ma tu devi piazzarla senza dirle nulla, cosa di naffu. E non posso fare nulla, no. Ne lo devo togliere questo palo. Capito? Non lo vuole. Ieri mi ha comprato quello da 4 metri per piazzarlo. E oggi mi ha preso a voci quando l'ho telefonato a vedere se mi faceva piazzare l'antenna. Capito? Dice il padrone di casa non vuole, e invece non è vero, manco ne sa Pietro, che lo conosco io a lui, al padrone di casa suo. ne saprà. Ruia. Vabbè, là, qui c'è gente cattiva, adesso mi faccio giustizia da solo. E così veniamo a trovarti a Bancali, Natali. E tanto è il posto che doveva finire lui, però se vado a Bancali lui va sottoterra, se io vado a Bancali, capito? Ah, fottidigna, sta tranquillo. Ma poi cos'è, proprietario? No, è un inquilino lui, non è proprietario. Però questo qui è un ex galeotto, un rapinatore, Emmy. Ho capito, e beh, quindi cosa ti vieta di metterti l'antenna, cosa c'entra? Quando vuole fare qualcosa la faccia, così finisce dentro almeno, se ne va lui, non tu. L'importante è che chi fa testo è il proprietario, mica lui, lui cosa c'entra? Il proprietario manco ne sa, però l'antenna io non la posso piazzare senza che ci sia lui, capito? O mi chiamo la scala aerea e la piazzo così, con la scala aerea. Per fare anche così, che te frega. Poi se li incontri, senza... Tanto questa gente ha più paura della gente che le parla tranquillamente che a quelli che mostrano la forza. E dici, se c'è qualcosa da dire me la faccia dire dal proprietario, poi ci pensano gli avvocati. E se fa danno, le chiamo pure i carabinieri. E infatti, questo è anche uno che fa dispetti, non ne voglio piazzare, o sa che mi rovini anche quella nuova, dopo tutti i soldi che ho speso. Che gente che c'è in giro. Mamma mia, proprio, altro che Covid, qua c'è qualche virus mentale che sta girando. Basta guardare in strada, ma lo sai quante macchine capottate, distrutte che sto incontrando? Ieri un'altra, la rotatoria di qua, avanti ieri un'altra. Cioè, no, la gente veramente sta uscendo fuori di testa. Cosa vuoi che ti dica? Io sono andato gentilmente, l'ho telefonato e questo qui mi ha preso a voce stamattina. Sì, vabbè. Non rientrerà stanotte a dormire. Lui deve fuggire da Sassari, però. Qua non ci può rimanere, perché ogni volta che lo trovo lo crepo. Non è fare queste cose, Natalia. Tutti zinni. Io già me ne frego, già. Però quei soldi che ho speso glieli faccio sputtare la bocca, che pure i denti, i denti pure cacciare, ne ridiro. Poi chi c'era? Gianni, tu eri? Ci sono, già fra, però mi sto pensando per uscire, da. Ci sentiamo, saluto tutti nuovamente. Ok, ciao ciao. Vediamo se Claudio è rientrato. Claudio? Chi è Claudio? L'hanno telefonato. Ok. Ah, cos'è giovane? Giovane, anziano? Quanti anni c'è? Sì, anzianotto. Beh, non è bastata ancora la... quello che ha avuto, ne vuole ancora. E vuol dire che ne vuole ancora. E quello è per fare bene, mi l'ho salvato da uno che lo voleva ammazzare a colpi. Figurati, a questo qui mi... è sano per me, per merito mio. Vedrai, quello è per fare bene alla gente. Purtroppo lui a volte capita anche questo. Com'era in Sassarese? Più bene vai e più male hai. Sì, vabbè. Adesso non so cosa fare perché qua... sono indeciso. Non può fare niente. Peccato che questa mi si riempie d'acqua, mi salgono le stazionarie a più di due. Se no l'avrei lasciata questa qui, l'antenna, e me ne sarei fregato. Ma infatti fino a due non le fa niente, Natalia. Fino a due non le fa niente. E non le fa niente. Sì, per il passaggio che facciamo, veloci. Adesso mi tocca vendermi tutto. Torna e buh. E cosa vuoi fare? Tanto. Ah, tu raddovi sei. Ma fottitini, Natalia. Mamma mia, la vecchiaia. Diventi tutti questi problemi. A mandare a cagare tutti quanti. Poi, se c'è qualcosa da fare, maestro, l'avvocato, a tutti quanti, che si escono dalle palle. Ma il fatto che qua ti rompono le scatole, guarda, a me mi hanno mandato all'ospedale addirittura per le incazzature che mi facevano prendere. Beh, non hai pensato di trovare un nido migliore? Ma perché me ne devo andare io, non se ne devono andare loro? Non ho capito. È perché la zona è piena di quelle persone, capito? Tutto lì. Io già lo so. Purtroppo manco in campagna, me ne posso tornare, sennò bisogna bisticciare. A me non mi piace stare a bisticciare, perché dopo mi toccano mettere le mani addosso ai miei fratelli e non mi va. Vabbè, ma poi è anche lontana, non è qua tre passi. Io in campagna non ci salgo per non bisticciare con quelli lì, capito? Se no tocca stare ogni giorno bisticciando. A me non mi posso neanche adirare qua, perché io ho avuto un infarto e manco adirare mi posso. Oggi mi ha fatto uscire fuori dalle grazie di Dio quello lì. State calmo, tanto non vale la pena. Adesso l'ho detto a un muratore che ha le chiavi di quello del terzo piano, se me la piazza lui sul tetto l'antenna. Adesso vediamo se è fattibile. Beh, il muratore almeno sa anche dove passare. E così saltamente tutte e due buono trafficchio. Per trovare risolto. Così risolviamo qua, se me la piazza sul tetto, lo pago e basta. Infatti, tanto quello lì non ci arriva a toccare neanche i capi, no? Non può fare niente, non può neanche salire sopra, che te frega, inquilino Emi, non c'ha diritto di parola. E se mi tocca i capi, lo toccano i dottori a lui. Già ci arriva a toccare i cavi, dove è adesso l'antenna. E non li puoi allontanare un pochino? No, non puoi fare nulla, è a fianco alla finestra sua, e non è per quello che mi serve lui, per mantenerla quando la togliamo. Ma, vabbè, se ti danneggia il coso... Di no, tanto le gentaglie non si mette nei guai, con avvertimento, voglio far fare da qualcuno di quelli in blu, e così si sta al suo posto, anche perché tanto non c'è, forse il proprietario magari è un altro discorso, ma lui... Sì, ma questo è uno che fa dispetti, ce l'hanno fatto fuggire da Porto Torres, perché faceva dispetti. Già c'ho presente il tipo, razza amara, no? Che non imparano mai finché non trovano qualcuno di quelli più cattivi di lui, oppure finché non ce ne mettono per lungo tempo a vivere a spese dello Stato. Se ha minacciato di morte a mia moglie, di più ne vuoi. Beh, quello l'avrei già fatto portare via, perché sono minacce gravi. Con la legge da adesso sarebbe già bancale. Ma ci vogliono le prove. Bisogna che quando l'ha detto bisognava registrarlo. Non è che... Perché la parola tua vale quanto è la sua, capito? Forse un po' di più della sua, ma lui può dire che non è vero. No, non è esattamente così. Se c'è dei precedenti di questa cosa ne dovreste informare subito la questura o i carabinieri, e loro le fanno una visitina per mettere le mani avanti. Così è diffidato, la fanno una diffida. Se tu hai detto una cosa del genere, stai attento, perché corri il rischio di finire male, capito? E di lì state nata lì, mettere le mani avanti, le spiega la situazione, lì a chi c'è di persona. Quindi vieni un po' avanti, dicono, perché là, se la persona è pericolosa hanno l'obbligo comunque di, almeno di fidarsi. questo è anche canterino, non gli fanno niente perché cantano. Che canti a no, se fa una minaccia di morte non è cosa da niente, no? Capito, nessuno se la rischia con elementi del genere a darle protezione, anche se canta. Se canta si deve stare zitto, non c'è problema nei confronti di chi non lo cerca. E infatti, quello è per fare il bene alla gente, non gli abbiamo fatto la denuncia perché sennò sarebbe stato ancora bancario. Vabbè. Quante se ne sentono, eh. Ogni giorno se ne sente una, veramente un malinconio. Posso? Prego! Grazie, buonasera a tutti e due. Natalie, l'unica cosa, se ti tocca i cavi, fai una denuncia, subito, subito. E vedrai cosa c'è fuori. Ma cosa gli fanno? Adesso non paghiamo più manco la concessione, non abbiamo più diritto a nulla, non hai capito? Cosa arrivati? C'è un infame di questura, Ghidù. Danneggiamento è nata lì. Lo so, per vie civili, ma per vie penali non li fai nulla. Cosa arrivai? E da voi a te ne paga domani, nulla tenente, nulla facente. Uia, cosa ne ripigli? Chi sui no ha? No, non si tratta di prendere quello che non ha. Il fatto che lui risulterebbe già diffidato è una persona che ha reati. Quindi deve stare attento a quello che fa, se non vuole ritornare davvero. Qualcosa faremo, perché se io non entro più, lui deve fuggire da Sassari. Questo è poco ma è sicuro, perché lo posso fuggire, come tiranno i fatto fuggire da Boccio-Torra, lo posso fuggire da Sassari, io si ne va andare un bel lontano, che non lo veda io. Adesso doveva venire gente qua per parlare, invece non c'è venuto. Vabbè, vuol dire che agirò da solo. Ma Natali, stavo ascoltando, ma quello che ci aveva dato una mano la prima volta? E chi su infame di questura? Oh, non ti fa montare l'antenna? Oh, mi ha preso a voce stamattina, oh, si l'avevo acciappato, me l'avevo mangiato. Perché stanotte lo sto tentando, come entra è fuzzito. Ma che fastidio è l'antenna c'è a fianco alla finestra, non ho capito. Sicuramente non vuole più affacciare il tubolino. No, vuole toglierne pure il palo, non solo d'altro. Ma ha detto, chi anda in caserma e mi denuncia, mi ha detto Buru. Ma questo è fuori di testa. E cazzo, già ci hai messo bene. E cosa metti lì? E come facciamo? Come fai lì? E vediamo. Vediamo. Se non riesco a mettere l'antenna mi devo vendere tutto e devi fuggire da Sassari, là. Non ti preoccupare che lui fugge. L'hanno fatto fuggire da Porto Torre, se non lo faccio fuggire da Sassari io a lui. Vedrai tu. Ogni tanto a ripidare i vini, perché lo faccio picchiare da tutti. Eppure l'inquinilo, là, mica il proprietario tra l'altro. Perché non lo so, il proprietario è Natalino lì. No, non lui, lui è inquinino. Quindi dopo qua solo bella voce, guarda, veramente una cosa da non credere, cazzo, veramente, una cosa da non credere, è veramente pazzesco, allucinante, vabbè, speriamo bene a Tari, mi raccomando, non ti compromettere, cerca di fare le cose da uomo grande che sei. Piano piano, vedi un po', se riesci a farlo ragionare e se no fai quello che devi fare, altro non ti posso dire, perché intanto gente del genere merita solo colpi e basta. E infatti quello che dico io. Oh, claro, mi viene in mente una storia che era successa verso le parti di Alghero in quelle campagne, che questo ci andava una volta alla settimana e va di lì e si trova la casa occupata da questa gente con bambini, con cosa, dice ma ho sbagliato casa, no, è casa tua, cazzo, noi da da quando ci muoviamo, chiamate i carabinieri, se no c'erano bambini piccoli, andate, guardi, noi così ci abbiamo le mani legate, veda lei se può fare qualcosa. E questo, siccome c'aveva dei parenti a Nuoro, Gosolo, in quelle parti lì, mi sono arrivati due tipi di quelli con campani, no, di quelli che parlano in sardo proprio, le hanno detto due parolini e le hanno fatto vedere qualche oggetto che ci avevano appresso. La sera stessa sono spariti, non li hanno più trovati. Invece l'ha fatta bene un altro che non ne ha chiamato polizia né carabinieri. Si è trovato questi rumeni dentro casa che dice che anche loro avevano diritto di farsi le vacanze. Non ha fatto niente, non è andato a Rusilleri, è andato a Chiamadura Mighi, sono andati 4 o 5 l'hanno cuto, maci, femmini e piccini, a tutti hanno picchiato e li hanno buttati fuori, così bisogna fare. Ma veramente se ne sente ogni giorno. Si ricorda dentro un fumogeno. Un fumogeno, ma quel fumogeno si ricorda dentro, è come una busirada, è un vostro secco. Ma così face la ragione da Sarodduccio, invece con un fumogeno si ricorda dentro, la di Granga si è pigliando il fungo. Sono rientrato, cosa sta dicendo Gianfra? No, anche oggi cucinando. No, cioè mi ha chiamato mia moglie che aveva bisogno di una mano. Ciao dottore, buonasera. Ma c'è anche lì. Va bene, no, sono qua Gianfra, dai, continua un attimino, già sono qua, già riprendo subito. Dentro la mano a mano un attimino. A mia moglie ritira la roba. Spero che non piova. No, speriamo bene, anche se scenderà un bel po' d'umido. Così è una roba da matti, roba proprio da matti. Natali, sei sfigato, non te ne va bene una. Lo so che sono sfigato, ma da oggi è sfigato lui che se ne deve andare da Sassa. Ha fatto la piazzare l'antenna da quel muratore, poi si tocca a Riviri, se la deve vedere che lui è un inquilino, non è un proprietario, è un inquilino. Quindi deve ragionare, Edu, prima di fare cose deve ragionare, se no stanno direttamente la pulizia lì, ma me lo ritirete a Gitu, se no lo porto un canterino di Miumi. E non ne metto, già mi faccio giustizia da solo, non ti preoccupare. Posso mettere chi su Baciori, se ci ha fatto la casa occupata. Se no c'è mega cui, vai a occupare a casa. Con Pizzini, vedi dietro c'è Nanda. Anche il proprietario però si è affittato la casa a questa gente. Sei un randaggio. Chisso è un randaggio, Chisso, il proprietario di chissà casa. Cazzo, qua, a tenere la casa in quelle condizioni, qua, mica ce ne vuole. Comare noi gusti da me. Ma è no che sei gentimara. Mi su cazzo di Rurubu. Guarda, per le incazzature mi hanno fatto finire all'ospedale. Ma te lo vuoi immaginare sto? Cosa mi hanno fatto? Ti sto dicendo che per finire male devono finire male loro. Ma io sono il tipo che non mi incazzo, no. Non mi incazzo per niente. Io quando vado dritto. Ma se non si cambia, rubato già a Roma Pesci. Così ho intenzione di fare io. Però io il fatto che mi sono adirato stamattina ero fuori dalle grazie di Dio, anche mia moglie mi ha tenuto di quanto era incazzato. Mi è matto lo zanga a capo subito. Infatti mi temo pure io, qua. Sto dicendo, non lo so se gli tiro cazzo una pistolettata quando viene, o un colpo di che tubo a capo. Meglio che non si faccia vedere stanotte, perché se come rientra è fregato, lo manda all'ospedale. Lì non c'è nulla da fare così, anzi è peggio, se ne riede così. No, devi essere calmo, con la calma, e la cosa gliela devi dire con la calma, Gedo, poi, no, non gli entra in testa, allora provvedi a fare altre cose. E aveva fatto che da Manila, aveva fatto un fumo, giorno 30, aveva chiamato i vigili, a casa non si può entrare nessuno. E no, non c'è, lui chiede l'elemosina, in cui io so dove trovarlo, è che sto aspettando gente che deve venire qua, se no sarei andato a cercarlo, la via Cutin Chivi un die, che è una cattone burmiso. Se fuori di capo, di sopra di è macacabo. Allora andiamo male così. Andiamo male così. Io mi sono incazzato perché questo non ragiona, capito? Se non ragiona vi ha fatto ragionare. Anche lì c'è un accattone, si è andato a mandare l'elemosina, è un accattone e non sa come sono le leggi. E ha contuso io mi. E allora, poi c'è sempre il vizio del coltello, c'ha. Cazzo. E mi dà ancora se farò un vizio di un muscello. E allora gli aveva fatto assaggiare. Natali, mi devo allontanare un attimo. Riprendi tu con l'amico, per adesso buona serata a tutti. Ciao Gianfranco. Dici, caro Tore, saluta Gianfranco che sta andando via. Ciao Gianfranco, stammi bene. Ciao, ciao. Ho preso Natalie, purtroppo il saliente è mara, senza pure i puliziotti si gira. Ehi, se ti sto dicendo che c'è il vizio del coltello, che come ti fidi di pugnalete? Sì, me l'aveva fatto passare il vizio del cuscello, altro che... E come poi fa capo è a posto. Oh, lui c'ha il vizio del coltello, però io c'ho la pistola. Non si devono usare in nessun posto, e lui... Le mani se le deve tenere in tasca, il coltello se lo deve lasciare in casa, e l'ho preso. Ti ho detto che ce l'ha, lui ce l'ha il vizio, capito? E se vado in questura non gli fanno nulla. E tu vai dal carabinieri Natali, ciao. Ciao, ciao. Ehi, anche con quelli canto. Sì, purtroppo, uno ce n'era qua. C'è a uno se ne è fuggito i nomi. Andavi conveniente, che era tutto intorno. Sono giunto i carabinieri, dice cos'è? Ma se non ve lo portate via, se no lo trovate sottoterra. Si tirano e buttate e non vi giunto più i nomi. E l'unica cosa è quella, boh. Ti sto dicendo che non so cosa fare, boh. Sono indeciso. Qualche metodo già si trova per fargliela pagare. Se deve solo gagliamudo e basta. Adesso domani vado dalla moglie del padrone di casa e mi faccio dare il numero di Pietro, così lo telefono e gli dico a vedere se è vero quello che ha detto, questo e quest'altro. Se è vero che è di un nuovo rubaro, io rimando subito i vigili sanitari e gliela faccio dichiarare inagibile quella casa. Immediatamente, perché è inagibile. Chi ha fatto un danno, voi? È l'unica cosa, l'unica cosa. Poi tu sei il proprietario e puoi mettere la cosa che vuoi. Lui è un inquilino e se deve gagliare mondo. Ecco cosa è. Così era da me. C'era uno, Mattesi, che non era proprietario e non voleva mettere nulla su, anche tu, per tutto sei un proprietario, tu devi gagliare. Qua ci pensiamo, se deve essere il proprietario, il proprietario non era fatto a nulla, ha sbagliato a Giubuti, e non mi ha fatto nulla. Cosa devi fare? Perché io se vado e chiamo il muratore e me lo fa e me l'attacca sul tetto, lui cosa può fare? Niente. Perché se mi fa qualcosa, cazzo, lo butto bugia a vero. Adesso domani deve venire anche questo muratore qua, così gli faccio vedere la storia. Perché lui c'ha le chiavi di quello del terzo piano, capito? Dove c'è il tetto proprio. E ha detto già me lo fa. Adesso deve vedere la situazione, che io gli devo far vedere una cosa a lui. Magari fai passare.